Thank you. cor profondo I chiamo ai chi potrà saziare queste mie voglie avare la ricchezza no che me saziar non può sete nova una cosa io vorrei che sola possa saziar gli affetti miei Esser in ciel con Dio sempre felice. Anima mia che pensi che dogliosa stai sempre traendo guai vorrei riposo e pace vorrei diletto e gioia e trovo affare l'ombra ecco I miei sensi prendi, qui ti riposa e godi in mille vari modi. Non vo più per quest'acque che la mia sete ardente si infiamma maggiormente. Prendi l'onore del mondo, qui gioir quanto vuoi, qui saziar di voi. Nonno, io so per prova con quanto senza fe apre il suo falso me. Altra cosa, tu sei più bella e vaga, in te dunque ti appaga. Già non mi faccio stessa, e come in me potrei, intorno Rosa sei tanto starrenci sempre in pianto questo no se m'ascolti la carne mia mi tenta, l'eterno mi spaventa. Miseror, che far degno, attaccarommi al peggio. No, no, che non è giusto, per un falace gusto, per breve piacer mio, per il ciel, la vita eterna. Il ciel, la vita è...